quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. A volte vorrei solo averti a fianco. Arriva sabato solo e solo il mio manca. Trovo parole in volo, stanca la stanza e manca a fianco solo il tuo affetto, profumo lo ammetto, di una cosa che non detto, porta frastuono il tuono. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. A volte vorrei solo averti a fianco. Arriva il giorno solo più perso e la luna del mio sogno manca. Perdo il passo e rimango solo, stanca la presenza e manca a fianco solo il tuo diretto affetto nel cuore, senza inutili parole dette che fanno solo il tuo suono dentro una lacrima che non getta. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te, scrivo per te, scrivo per te. A volte e ore vorrei solo te a fianco, mentre manca il tuo sguardo qui a rischiarare solo le ore. Arranca il fiacco animo, è stanco il dardo, non colpisce più le orde di pensieri persi, persi, assi che non intingono ma rimangono soli, che non intingono ma rimangono soli. Quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te, scrivo per te, scrivo per te. A volte vorrei solo averti a fianco. Arrivato sabato solo e il sole non manca. Trovo parole in volo, stanca la stanza e manca tanto. Sono il tuo affetto, profondo lamento, una cosa che non detta porta con suono il cuore. Vorrei solo averti a fianco. Arriva il giorno solo più perso e la luna del mio sogno manca. Perdo il passo e rimango solo, stanca la presenza e manca a fianco solo il tuo diretto affetto nel cuore, senza inutili parole dette che fanno solo frastuono dentro una lacrima che non getta. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te quello che non ho mai scritto e detto. Scrivo per te, scrivo per te, scrivo per te. A volte e ore vorrei solo te a fianco, mentre manca il tuo sguardo qui a rischiarare solo le ore. Arranco il fiacco animo, stanco il dardo, non colpisce più le orde di pensieri avversi.